Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, questa è la seconda delle tre interviste che riguardano la campagna per la liberazione del prigioniero politico e il compagno Maroun Shouts da una delle tante carceri della Pennsylvania. Questa volta si tratta di una intervista con Quincy Saul che è coinvolto come me nella campagna a livello anche internazionale, e con lui abbiamo conversato sulla campagna stessa e i suoi sviluppi e le sue prospettive. Quindi adesso comincio la traduzione di questa intervista fatta il 21 giugno del 2013, cioè l'anno scorso. Innanzitutto chiedo a Quincy di descriverci in maniera più sintetica possibile di cosa si tratta questa campagna per la liberazione di Maroun Shouts, ma non soltanto, ma di descriverci anche che cosa rappresenta Maroun Shouts dal punto di vista dei movimenti antagonisti statunitensi e speriamo anche altrove. Thanks so much for having us on the show. There's a big commonality between the people of Italy and the people of the US because we both have the highest respective prison population. Vi ringrazio tanto per l'invito. Intanto volevo far notare che abbiamo in comune con l'Italia il fatto che nei rispettivi continenti si abbia il tasso maggiore di carcerazione, o vorrei precisare io per il caso italiano, io, cioè TK, che si tratta di essere almeno tra i primi posti per quanto riguarda il tasso di carcerazione in Europa, per quanto riguarda l'Italia. Quindi procede a dirci: è da tempo che ci si batte per liberare Russell Maroun Shouts. Ha 70 anni ed è in carcere ormai da 40 anni, 30 di cui li ha trascorsi in cella di isolamento, e più precisamente 28 anni in una cella di isolamento altamente sorvegliata e controllata, una cosiddetta unità di controllo. Ha fatto parte delle Pantere Nere e impegnato per decenni in attività rivoluzionarie negli USA, specie nella città di Filadelfia, sia come autorità e organizzatore, sia come teorico e visionario. Il suo pensiero sulla lotta comprende un taglio approfondito sulle questioni di strategia e teoria di genere, cioè di rapporti di genere, di ambiente e di ecologia. I suoi scritti su questi temi sono stati raccolti in un volume appena uscito dal titolo Maroun the Implacable, cioè Maroun l'Implacabile. Questo grazie alla casa editrice PM Press, che è una casa editrice alternativa di stampo anarchico. Abbiamo infatti appena concluso un giro di 16 città negli Stati Uniti con 30 avvenimenti per promuovere il libro di Maroun e per sensibilizzare la gente al suo caso e a tutti i casi di prigionia per ragioni politiche che tuttora esistono negli Stati Uniti. Si tratta di un libro scritto in carcere e inteso per i carcerati. È una raccolta di scritti brevissimi che toccano temi come il carcere, la sua storia, la storia del movimento di liberazione afroamericana, la lotta contro il patriarcato, le strategie di organizzazione delle lotte, si tratta di ecosocialismo e così via, come già accennato. Sono scritti che servono a comunicare idee nel modo più veloce e efficace possibile, in condizioni durissime, da dentro la cella di isolamento. Infatti, si passavano gli scritti da una cella all'altra tramite voce, se non con piccoli pezzi di carta distribuiti clandestinamente. È anche un modo per tenere dei seminari con altri carcerati quandunque l'occasione si presenti. È un libro molto profondo che merita una traduzione in italiano per consentirne una diffusione anche in Italia, come la mette Amiri Baraka, famoso poeta afroamericano coinvolto nel movimento di liberazione nazionale. Si tratta di un manuale molto funky su come iniziare una rivoluzione. Negli scritti spicca specialmente il tema delle comunità Maroun, le comunità cioè di fuggiaschi dal 500 fino a fine 800 in pratica, da cui Shouts ha tratto il suo nome, Maroun, per l'appunto. Cioè, si tratta di comunità americane in cui si mescolavano nativi americani, schiavi evasi, dissidenti bianchi e fuggiaschi di ogni genere che fondavano alle volte intere città fuori dal controllo del regime capitalista schiavista coloniale. Per Schultz queste comunità e le loro storie, le loro esperienze di lotta sono importanti nel mostrarci una via di uscita nel presente da quello che lui chiama, traendo molto dai movimenti femministi, il sistema capitalistico patriarcale. Infatti per Schultz, che riconosce il suo passato di maschilista che ha dovuto superare, la lotta per la liberazione delle donne deve essere al centro delle lotte rivoluzionarie. Un altro tema fondamentale che si riscontra nei primi scritti e viene via via sempre più sviluppato è il tema dell'ambiente. Verso la fine del libro, infatti, la lotta per la giustizia sociale non può prescindere dallo sviluppo di una coscienza ecocentrica. Per Schultz l'emergere di un movimento ecosocialista è quindi di altissima importanza e ne condivide i suoi ideali pienamente. La sua sensibilità per la questione ambientale è piuttosto sorprendente se si pensa ai decenni che ormai ha trascorso in un ambiente talmente artificiale come il carcere. Ma grazie a questa sensibilità i suoi scritti consentono di unire i movimenti finora nettamente separati come l'ambientalismo e la lotta contro il carcere. Non è un caso che il collettivo Eco-Socialist Horizons, di cui faccio parte e di cui fa parte anche Quincy Soule, ha contribuito a fare uscire il libro di Schultz. Comunque, la lotta per la liberazione di Barun Schultz è una lotta per la liberazione di tutte e tutti i prigionieri politici, che sono almeno un centinaio, forse anche di più, negli Stati Uniti. Ma non si tratta solo di prigionieri e prigioniere politiche, ma anche di tutte e tutti ora dietro le sbarre, almeno 2,5 milioni di persone e anche di ben 7 milioni che in un modo o in un altro sono sotto il giogo del sistema giudiziario. Così la campagna per la liberazione di Schultz è una lotta molto ampia e che dall'ottobre dell'anno scorso, cioè dall'ottobre 2013, avremmo voluto diffondere a livello nazionale. Ovviamente per ragioni che ho già citato, questo sono io TK che aggiungo, per ragioni che ho già citato dalla prima intervista, non abbiamo potuto spingere a livello internazionale fino ad ora. Per continuare la traduzione dell'intervista con Quincy. Quincy continua. Già abbiamo contatti in Sudafrica e nel Venezuela, dove molti trovano molto interessanti le idee di Schultz. Tra coloro che hanno promosso il libro di Schultz, inoltre, ci sono Chuck D di Public Enemy, due sudafricani, e Ugo Blanco, una figura importantissima per il mondo delle lotte indigene e contadine in America Latina. Vorremmo quindi che coloro in Italia che trovano importanti le idee di Schultz, da quello che ne state sentendo, che si mettano in contatto con noi e che, se possibile, organizzino avvenimenti di solidarietà, come fu fatto tempo fa per Mumia Abu-Jamal, che è anche un amico molto stretto di Barun Schultz. Ora che ci hai descritto la campagna per la liberazione di Barun Schultz, Quincy, parlaci di com'è che è finito in carcere. Russell Schultz crebbe nella Filadelfia occidentale degli anni 40 e 50, un periodo particolarmente atroce per quanto riguarda il razzismo e la repressione, cioè la violenza delle istituzioni contro la comunità afroamericana. Schultz ne fu sia testimone che vittima di questa violenza, cosicché nei primi anni 60 fondò il Black Unity Council, il consiglio di unità nero. Tra i fondatori vi furono anche membri di bande locali che si convertirono in difensori della propria comunità afroamericana che subiva le violenze della polizia. Durante quel decennio Frank Rizzo assunse la carica di capo della polizia di Filadelfia e in seguito divenne anche sindaco tra il 1972 e il 1980. Il dominio di Rizzo fu cruento, specie verso la comunità afroamericana. La mentalità guerrafondaia di Rizzo si rispecchia nella sua dichiarazione durante un'intervista televisiva del 1979 di avere a disposizione un corpo di polizia talmente forte da poter invadere Cuba. Il Consiglio dell'Unità Nero non copriva solo funzioni di difesa contro gli abusi della polizia. La stragrande maggioranza delle attività erano di assistenza nel fornire pasti gratuiti, servizi sanitari, eccetera. Però la repressione statale costrinse l'organizzazione nella clandestinità ed è in quel contesto che Russell Schultz fu arrestato nel 1970 con altri 4 esponenti del Consiglio durante una delle tante retate all'epoca. Il caso venne nominato i 5 di Filadelfia durante la campagna nazionale per la loro liberazione. furono arrestati in pratica come vendetta per l'uccisione di un poliziotto, che a sua volta fu ucciso a causa di altissime tensioni provocate dalla polizia stessa nell'assassinio di un afroamericano sedicenne mentre stava a casa sua. Fu ucciso dalla polizia in cucina davanti a sua madre. Fu in quel contesto che un poliziotto venne ucciso e nella retata alla cieca che ne seguì, la polizia volle subito dei capri espiatori. Ne trovarono nell'arrestare 5 membri autorevoli nella comunità afroamericana, tra cui Russell Shouts, che fu processato e condannato senza alcuna prova. Lo stesso avvenne nel caso degli altri 4. Furono tutti condannati all'ergastolo e sbatterono Shouts in cella di isolamento per via delle sue attività organizzative in carcere. Gli imposero la cella di isolamento per ben 28 anni. E così si conclude l'intervista con Quincy Saul, coinvolto nel comitato per la liberazione di Russell Maroon Shouts.